Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione radiofonica che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan, con lo sguardo rivolto ai più oppressi tra i viventi, che numericamente parlando, ma non solo, sono senza dubbio gli animali non umani. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Krasnodar, nella Russia meridionale, qualche settimana fa una coppia è stata fermata dalla polizia e accusata di antropofagia, che è il modo corretto di chiamare il cannibalismo. Nel loro frigorifero e congelatore sono stati trovati resti di esseri umani, di cani e di gatti. I due, secondo gli indizi, avrebbero iniziato la loro attività criminale nel 1999 e da allora avrebbero adescato, ucciso e cucinato 30 persone. A incastrarli sono state le foto rinvenute dagli investigatori su un cellulare smarrito per le strade di Krasnodar. Nelle immagini l'uomo è ritratto in posa con parti del corpo di una donna smembrata. Tra le foto anche una testa umana guarnita di arance e mandarini. La donna ha confessato di aver confezionato delle torte di carne umana che poi ha venduto a vari ristoranti. Fin dall'antichità l'antropofagia, cioè il fenomeno di umani che mangiano altri umani, è un evento comune a più culture. Esistono le prove in reperti, incisioni, dipinti e scritti. Ma chi ha studiato il fenomeno ci avverte che l'antropofagia di penuria, cioè quella attuata solo per sopravvivere in situazioni di grave carestia o assoluta mancanza di cibo, è minoritaria. L'antropofagia, detta anche erroneamente cannibalismo, quindi come fenomeno non è ascritto al bisogno, piuttosto alla volontà di imporre la propria identità, individuale o di gruppo, su altri. E per lo più sono nemici o individui con qualche deformità, con qualche handicap, comunque soggetti esterni al gruppo di appartenenza. In un contesto come quello bellico, per esempio, cibarsi del nemico significa assorbirne il valore, la qualità e l'energia. Mangiare l'altro, insomma, significa annientarlo e inglobarlo sotto forma di alimento. Una volta sconfitti, si è consapevoli di diventare il cibo dei vincitori. No more miracles, loaves and fishes, been so busy with the washing of the dishes. Una riflessione che ci viene da fare rispetto alla notizia dei due cannibali russi e riportata all'oggetto delle nostre riflessioni, cioè la questione animale, è che i vincitori tra le specie animali siamo stati senza dubbio noi, cioè gli Homo sapiens, non fosse che per la frenesia di sottomettere, allevare e degradare a cibo i nostri parenti non umani. Sono oggi oltre 170 miliardi di animali che vengono uccisi ogni anno dall'uomo solo a scopo alimentare. 14 miliardi ogni mese, mezzo miliardo ogni giorno, 19 milioni ogni ora, 300.000 ogni minuto e oltre 5.390 al secondo. Alla luce di questi numeri, forse non è così azzardato ritenere che esista qualcosa che accomuna l'antropofagia rituale e il carnismo, cioè la necessità, il bisogno, potremmo anche dire il gusto, di rafforzare la nostra identità di specie vincitrice. Ma qualcosa sta forse cambiando se alla più importante fiera internazionale del libro di Francoforte, quest'anno nel padiglione destinato alla cucina e alla gastronomia, è comparso un nuovo espositore che si chiama ProVeg. ProVeg lavora con i governi, le imprese, le istituzioni pubbliche, i medici e i cittadini per incentivare la transizione della società verso consumi che siano sempre più a base vegetale e verso un'economia sostenibile per gli umani, gli animali e per il pianeta. Sentiamo l'intervista. No more miracles, loaves and fishes, been so busy with the washing of the dishes. ProVeg è una rete internazionale, un'organizzazione attiva in più paesi europei con l'obiettivo di ridurre il consumo globale di animali del 50% entro il 2040. Un obiettivo ambizioso. A fondare la rete ProVeg è stata la psicologa e sociologa Melanie Joy, autrice tra il resto del libro Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche, assieme al marito e a un altro noto attivista. Sentiamo il servizio. The goals from ProVeg International are to create a healthy world for everyone, not only for humans. L'obiettivo di ProVeg è creare un mondo sano per tutti, non solo per gli umani, anche per gli animali e per l'ambiente. Ci impegniamo per gli animali, per l'ambiente, per il gusto, per la salute e per la giustizia. Sono questi i 5 progetti che vogliamo che si realizzino per tutti. Yeah, ensure a better life for everyone. Qual è la differenza fra questa organizzazione e altre organizzazioni vegane, tipo la Vegan Society britannica? We see us as a multi-problem solver, so we're not only interested. Noi ci proponiamo di trovare soluzioni a problemi di vario tipo. Siamo interessati alla protezione degli animali, ma teniamo ben presente anche l'ambiente e la salute. Ci stanno a cuore tutti questi aspetti e proviamo ad arrivare a soluzioni attraverso un piano alimentare nutritivo e sano. A very healthy nutrition. Professionals who work for us full time, but we also have lots of. Abbiamo professionisti che lavorano per noi a tempo pieno, ma abbiamo anche molti volontari e stagisti che ci aiutano a portare avanti il lavoro. Al momento siamo in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna, in Polonia, ma ci stiamo allargando a Olanda, Belgio, Sudafrica. Stiamo parlando con la Cina e siamo in contatto con altri paesi. Vogliamo diffondere il nostro messaggio il più possibile. We're spreading the word to everyone. Qual è il vostro rapporto con l'industria alimentare? Well, we're trying to work with them together. Noi cerchiamo di lavorare insieme a loro, a cooperare. Siamo contenti di ogni piccolo passo e ogni passo nella direzione dove vogliamo andare lo consideriamo buono. Per ogni prodotto vegetariano o vegano vorremmo un'etichetta in modo che possa essere trovato in modo facile. Non siamo contro nessuno, siamo contenti per ogni piccolo passo, per ogni piccolo progresso dell'industria verso il nostro obiettivo. Stiamo cercando di creare una piattaforma che fornisca molta informazione, che aiuti a diventare attivi se si vuole diventarlo. Cerchiamo di proporci come modello di risoluzione di vari problemi e quindi il nostro principale compito è rispondere a tante domande, anziché puntare il dito. La nostra scelta è limitarci ad aiutare la gente a informarsi, aiutarla a pensare. Get the people to think about something. Le vendite di antibiotici per uso animale sono diminuite del 13% in Europa tra il 2011 e il 2015. A stimarlo è l'Agenzia Europea dei Medicinali, che ha pubblicato una relazione sulle vendite di questi farmaci a livello veterinario. Il report conferma una tendenza decrescente nella maggior parte dei paesi, il che dimostra gli effetti positivi delle campagne di informazione avviate a livello nazionale per combattere la resistenza antimicrobica. Ben 30 paesi membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo più la Svizzera hanno presentato dati relativi alle vendite o alle prescrizioni dei medicinali veterinari antimicrobici per il 2015, compresa la Grecia, che lo ha fatto per la prima volta. Tra il 2011 e il 2015 le vendite degli antibiotici per il trattamento degli animali sono diminuite del 13,4%. Questo risultato copre 25 dei paesi partecipanti che hanno fornito i dati dal 2011. Il rapporto mostra comunque una situazione varia in tutta Europa, ma un calo delle vendite di almeno il 5% è stato osservato per 15 di questi paesi. Tuttavia, 8 hanno registrato un aumento delle vendite di oltre il 5%, un fenomeno su cui occorre agire, conclude l'EMA. La grande casa di moda Gucci ha annunciato che a partire dal 2018 non utilizzerà più pellicce nelle proprie collezioni, perché si tratta di materiale ormai obsoleto. Nonostante la motivazione non sia proprio quella più nobile, la scelta è stata applaudita dagli attivisti che da anni lottano per bandire l'uso della pelliccia nell'industria della moda. La decisione, comunicata presso il London College of Fashion, è stata appoggiata anche dalla Human Society of the United States, la più grande organizzazione di protezione animali negli Stati Uniti, che da 8 anni conduceva trattative con il colosso della moda. Gucci non è il primo marchio di moda che fa questa scelta. Già Calvin Klein, Armani e Ralph Lauren sono diventati for free negli anni passati. Se, come ci auguriamo, questo trend sarà seguito anche dalle altre case di moda, l'industria delle pellicce, che stando alla notizia riportata dal Telegraph ha un fatturato di oltre 40 miliardi di dollari l'anno, subirà un grande colpo. È una battaglia che non finirà mai, anche perché una volta ottenuta l'obsolescenza della pelliccia arriverà sicuramente il momento di cominciare a combattere per dichiarare anche quella della pelle. L'estinzione di massa del Cretaceo Paleocene, detta anche estinzione di massa del Cretaceo, è una drammatica riduzione del numero delle specie viventi sulla Terra che gli scienziati datano circa 65,95 milioni di anni fa. È ritenuta una delle maggiori estinzioni faunistiche verificatesi dopo il Fanerozoico ed ha portato alla scomparsa di circa il 70% delle specie marine esistenti e delle specie continentali. Tra questi animali scomparvero i dinosauri terrestri e quasi tutti i rettili marini. A questi animali estinti ma ancora così presenti nel nostro immaginario è dedicata la rubrica di libri per bambini che amano gli animali, speriamo che sia vegan. Stavolta Agata ci propone la storia di Reginaldo, un dinosauro vegetariano.

the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please. Don't fence me in. Don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon until I lose my senses. I can't look at hobbles and I can't stand fences. La ricetta della settimana a cura del Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni è dedicata alle vittime della grande estinzione di massa del Cretaceo Paleocene. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Pistons ci hanno regalato un'immagine di uomini preistorici che convivevano con dinosauri come animali da compagnia, tipo il fedele vivace dino, ma anche di famelici pranzi a base di bistecca di brontosauro. Insomma, un essere umano ancora non evoluto che da una parte amava i dinosauri e dall'altra se li pappava. E meno male che ci siamo evoluti. Vabbè, erano cartoni animati e crescendo abbiamo scoperto che gli umani non hanno condiviso la terra con i dinosauri, buon per loro. Ma quello che spesso ci sfugge è che la dieta dei primi umani non era a base di carne, ma un'alimentazione crudista e fruttariana. Altro che bisteccone di mastodontiche proporzioni. Per questo la ricetta di oggi è quella di un tiramisù tutto speciale. Già, perché oltre a non necessitare cottura, i suoi ingredienti sono solo semi e frutti. Tiramisù raw. Gli ingredienti per 4 persone sono 3 banane mature, 100 g di datteri denocciolati, un cucchiaio di farina di carrube, 125 g di anacardi, 2 cucchiai di olio di cocco, un cucchiaio di cacao crudo in polvere. Mettete i datteri e gli anacardi in ammollo in acqua per circa 30 minuti separatamente. trascorso il tempo necessario, frullate i datteri e seme alla farina di carrube e due cucchiai di acqua. Dovete ottenere una crema, quindi, se è necessario, aggiungete altra acqua. Sbucciate le banane e tagliatele per verticale, quindi pareggiate le estremità per ottenere dei rettangoli, conservando le parti in eccesso. Scolate gli anacardi e frullateli assieme all'olio di cocco e ai pezzetti di banana che avete scartato. Otterrete una crema piuttosto morbida che si compatterà successivamente riposando in frigorifero. In un contenitore o in un coppapasta quadrato formate uno strato di fette di banana. Coprite con un sottile strato di crema di datteri e carrube, quindi sovrapponete metà della crema di anacardi. Poi nuovamente uno strato di banane, uno di crema di datteri e l'altra metà di crema di anacardi. Fate riposare in frigorifero per circa un'ora. Coprite la superficie con polvere di cacao crudo o, se preferite, con un altro cucchiaio di farina di carrube. Alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Agata, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da chi vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, cioè Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata 404 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta a meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.